Pronto? Sì, contrada imperiale della giraffa? Sì. Senta, ma non vi vergognate, avete ammazzato l'ennesimo cavallo. Ma perché non va a pigliarselo nel culo lei? No, nel culo se la pigliano i poveri cavalli. Pronto? Contrada della Tartuca? Sì. Voi siete colpevoli di questo continuo, terribile olocausto dei cavalli che vanno a morire per il vostro divertimento. Ma se lo va a pigliare il culo. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Ciao, sono Sebastiano Barisoni, Radio 24. E questa volta non sono solo. Io sono Lorenzo. Io Jacopo. Giovanni da Livorno. Anche noi pisciamo sugli scogli. Bravi ragazzi. I love my radio. Con Paolino Ruffini. I love my radio. I love my radio. Andatevene direttamente a fanculo. Andate direttamente a fanculo. Sabato se la democrazia... il centrodestra protesterà. Ma che scusami, ma la protesta sabato è una cosa. Impedire un i tuoi di amici del centrodestra protesteranno. Sarai anche tu in piazza. Mi hanno detto che parlerai dal palco. Su che cosa interverrai? Su che cosa interverrai sabato? Ma sabato vado a Formentera. Su che cosa? Diciamolo. Certo, Daniele da Fermo. Sabato vado a Formentera. Su che cosa? Diciamolo. Sono Giuseppe Cruciani, io resto in Italia. Sì. Io di solito già lo faccio, dunque non è una cosa che mi pesa particolarmente, ma quest'anno, questo è l'invito che voglio farvi, sì. Quest'anno più che mai fate le vostre vacanze in Italia, in questo straordinario paese. Sabato vado a Formentera, su che cosa? Diciamolo. Da Fermo. Certo, Daniele da Fermo. Andiamo, Salvatore, ecco, prossimo disco. Lo sai? Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Dove sei, Veneti? Cruciani, pezzo di merda, i contagi sono nuovamente in aumento, sarà una catastrofe e la colpa è di voi lombardi che andate in giro per l'Italia. Altro che museruola per altri 15 giorni. Io recinterei completamente la Lombardia e la bombarderei a tappeto col napalm. Rimio ridotto sul lastrico, Menagramo. Se ne vada, sparisca! Menagramo, prima che le licenzi. Menagramo d'un Menagramo. È maraviglioso. Ma qui ci vuole la nostra prostituta dei parioli per aumentare lo share. Ci vuole lei per intervenire. Quella è una ci vuole una lei, porta nera, ci vuole lei. Una porta nera di prima quella lì. Fermi tutti, Monte Rosa 91 20 149 Milano, eccoci qui. Collegamento da una stanza speciale attrezzata, lo dico io, sono tutti di lunghi troppo, eccetera, dalla grande dirigenza di una televisione che si chiama La 7, sì, David sì. Parenzo, eccolo qui, benissimo. Buonasera, una signore. Stanza dotata di aria condizionata, no, c'è anche un piccolo frigo bar, c'è sì. anche un piccolo frigo camerieri, bar. No, camerieri con, no, non arrivano no, i camerieri con in livrea. Con delle bevande no, che no, io metto la mattina, le bevande sì. che mi porto così rimangono belle fresche sì, per poter, sì. come dire, no, l'ugola, sì. per poter non avere problemi all'ugola sì. e c'è una poltrona molto comoda, ergonomica, con una dove posso appoggiare la schiena, sì. una scrivania molto ampia. Un signore di un colore, televisore... un signore di colore no, che ti porta una no, spremuta d'arancia, no, non c'è? No, un televisore per monitorare ogni minuto le notizie. Insomma, è una war room perfettamente attrezzata. E quindi ancora una volta, e quindi ancora una volta, già detto. Senza piaggeria, grazie. Che schifo, senza piaggeria, guarda, che schifo, grazie. Che schifo. Appunto. Allora ragazzi, il governatore del Veneto Zaia vuole il TSO per i positivi che non possono andarsene in giro tranquillamente. Sentiamo il TSO per quelli che sono positivi e se ne fottono e vogliono girare. Molti dicono, beh, però ragazzi, il TSO, TSO è un po' esagerato. Comunque vai, vai. Ma è fondamentale che ci sia il ricovero coatto senza star lì. Deve essere un TSO, cioè un trattamento sanitario obbligatorio. Perché non possiamo star lì a discutere con una persona che si rifiuta di farsi ricoverare. E dall'altro la necessità di essere severissimi con gli isolamenti fiduciari. Cioè ci sta dicendo che oggi se uno viene trovato positivo e non si vuole, non vuole fare nulla, non vuole andare a casa eccetera eccetera, non si può fare niente. Dunque secondo te ci vuole un TSO? Cioè per chi non si fa ricoverare e va in giro tranquillamente positivo, magari a infettare altre persone eccetera eccetera, ci vuole il trattamento sanitario obbligatorio. Io in questi giorni mi trovo tra Cruciani, che saresti tu, sì, e un altro Cruciani, signore che si chiama Luca Telese, personaggio improponibile, il quale signor Telese è diventato il manutengolo di questi anti-covid, di questi anti-covid. Anzi, se lo vedi diglielo a quel signor Telese. Quindi è diventato un negazionista, è diventato un negazionista. No, negazionista no, però dice no, basta con sta mascherina, cos'è sta mascherina? Oggi che è scoppiato il casino in Veneto, bisogna dire che Zaia, per quanto duro e determinato, è stato molto bravo a riprendere, cioè siamo circondati da irresponsabili. Tu dalla radio di Confindustria, io non capisco perché non hanno chiuso sta trasmissione. Cioè io vorrei che che chiudessero, perché non è possibile che tu dalla radio di Confindustria, ma io non dico niente, io non sto dicendo che fa male, di sto dire dicendo... che non è... No, cioè, attenzione, tu stai io sto mettendo dicendo... a repentaglio la struttura portante di questo paese, che sono le aziende. È compatibile il conduttore radiofonico della radio delle aziende che parla contro le aziende? Lo chiedo liberamente, è compatibile? Qualcuno della dirigenza mi risponda, perché se si va in lockdown si blocca il paese e le aziende chiudono e c'è uno dei due conduttori radiofonici, che sei tu, che è a favore della chiusura, scoppia il disastro. Chiedo, è compatibile? No, è responsabile, tu dici, della chiusura. Io dico solo una cosa, però, amico mio. Allora, se uno mi guardano allibiti, cioè se uno va in giro, se uno va in giro effettivamente, gli dicono che si deve ricoverare, va in giro, oggettivamente qualcosa bisogna fare. Il TSO mi sembra esagerato, è una cosa buttata lì, il TSO, ma qualcosa bisogna fare. È stato estremo, ha usato evidentemente un'iperbole. Però se uno, no, però scusami, è una, il TSO, anzi, che iperbole, è giusto. Non ti curi, non denunci dove sei stato, non vuoi andare a farti curare col rischio di contagiare tutto il Veneto, ti facciamo il trattamento sanitario obbligatorio, ma senza dubbio. Anche Caramone dice certo. L'irresponsabile c'è sempre in giro, no? Ma guardate, cioè, se avremo le terapie intensive piene a settembre-ottobre, non è colpa delle aperture fatte a maggio, è colpa del fatto che qualcuno probabilmente non ha utilizzato la mascherina quando doveva utilizzarla. Cioè, questo è quello che dobbiamo dire. Sì, bisogna anche dire che Zaia nelle settimane scorse era uno dei liberi tutti, cioè uno di quelli che ha detto che il Covid era che il Veneto era Covid free, eccetera, eccetera. No, poi capito, certo, non è colpa sua. Comunque se la uno... gente è con me. La gente come mi scrivono, mi sta scrivendo Spotorno, Valeria Spotorno mi ha scritto TSO forever. Come che è un'antautrice, c'è Carla Mone, c'è siete tutti a favorevole dei TSO forever, scrive. Certo. La gente è come, perché le persone hanno paura, sono state in lockdown per mesi, perché per colpa di alcuni irresponsabili dobbiamo pagare un prezzo enorme. Intanto il nostro amico Franzoni, uno dei negazionisti più forti del Covid, un barista di Livorno, di Carrara, di dove cazzo è, non mi ricordo, continua nella sua propaganda contro il virus, la sua propaganda negazionista e soprattutto antivaccinista. Facebook e Bill Gates contro di noi. Io credo che i motivi per cui Facebook, quindi Zuckerberg e quindi il gruppo che fa capo a Bill Gates e tutto l'apparato giudaico-massonico che è alla fonte, il motore, la motrice diciamo di tutta l'informazione e di tutto il sistema della carta stampata a livello mondiale, si stia accanendo contro di noi, che siamo tanto piccolini, ma non contro solo di voi, perché siamo i latori della verità, noi siamo quelli che stiamo portando la verità a conoscenza del popolo italiano. Ma nessuno è contro di voi, non vi conoscono questi qua, qui in America, Facebook, i proprietari non vi conoscono, e se lì è una questione di algoritmo, decidono in base a questo. Ragazzi, non ne posso più, stermino gli italiani con i vaccini. Senti, attenzione, non fate assolutamente i vaccini. I vaccini sono la cosa più pericolosa al mondo. Hanno già stabilito che per una questione di qualità della vita la popolazione italiana deve essere abbassata entro 20 anni di 13-14 milioni di unità. L'unico sistema per sterminare il popolo italiano sarà l'uso dei vaccini. Ma Davide, di qualcosa! Ma di qualcosa, l'unica cosa da dire è fornire alla polizia il numero ma di questa persona, già, la localizzazione e basta, e metterlo a pulire. Comunque, il ragazzi, posso dire una cosa? Allora, forse utili. Ha ragione Burioni su una cosa, quando dice che il coronavirus ha aumentato l'impazzimento generale. Cioè, lui ha detto una cosa: il coronavirus ha aumentato l'impazzimento generale. Forse su questo ha ragione. Chi forse una cosa, il signor Burioni ha detto che il coronavirus ha aumentato l'impazzimento generale delle persone. L'impazzimento generale. E avete visto tutti forse le immagini di una signorina che avvicinava il Premier Conte? Il Premier Conte, noi sappiamo chi è, ovviamente, per fare un selfie. La signorina Cantini. Cos'è? La signorina Cantini. È una sciroccata, cos'è quella? Però facciamoci un selfie. No, è la distanza, dobbiamo mascherina. Facciamoci un selfie, dice. Poi dice: dovrei togliermi le mutandine per fare un selfie con lei. Si chiama Alessandra Cantini, è stata più volte ospite di questa trasmissione. Io mi domando com'è possibile che sia così facile avvicinare un presidente del Consiglio in Italia, eccetera. Perché è una persona che sta tra la gente, il Premier, è uno che sta tra le... Allora, vi devo dire una cosa, ragazzi, vi devo dire una cosa. Sta succedendo negli Stati Uniti una cosa abbastanza incredibile. Ora non riguarda, non ve ne frega niente, lo so, ma è frutto del politicamente corretto più assurdo. C'è una squadra di football americano che si chiama Washington Redskins, i Pelle Rossa, che vuole cambiare nome perché gli sponsor stanno premendo per il cambio di nome. Cioè, questi si chiamano i Pelle Rossa, c'è una vecchia questione che risale a tanti anni fa, e ormai praticamente hanno deciso di cambiare nome. Hanno deciso di cambiare nome perché dice che il nome offende i nativi d'America. Ma dove cazzo siamo arrivati? Dove siamo arrivati? Fermi tutti. Cruciani, ma lo sbiancamento anale è razzista. La Zanzara. Punto primo, io ingoio. Cosa? Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Niente, ho sentito che in Calabria c'è la possibilità di incontrare Klaus Davi quest'anno. Allora, per star tranquillo, ho prenotato in Valtellina, che non si sa mai. Ne parleremo stasera? Sì, io vedo molto negativo. Ho bisogno di una dose di Spatalino, fatemi sentire Spatalino, vi prego, fatemi sentire Spatalino contro gli immigrati, vi prego. Non c'è più spazio neanche a bordo della nave per la quarantena, questi scappano, credetemi, è un pericolo che l'Italia sta attraversando, è il grave che a Roma fanno gli ignorri, fanno gli americani, gli enchi. Io non fomento l'odio, io faccio la mia piccola parte di italiano che ama il suo paese. Noi ci stiamo portando dentro persone ammalate, delinquenti della peggiore risma. Questi falsi profughi, il pericolo è dietro l'angolo. Ecco perché io grido, mi devo far sentire. C'è una corresponsabilità governativa anche da parte del Papa, perché vorrei che Sua Santità aprisse le porte del Vaticano e li acquartierasse lì dentro, sti quattro sbandati e in particolare questi che sono ammalati, devono provare invece si lavano la bocca. Non devono più venire in Italia usando anche le maniere forti. Devono starsene in Africa. Io me ne frego di questa gente. Ci stanno portando malattie. Dato che tu non lo dici, caro David, posso sottolineare al signore che abita in Veneto, Spadalino. Io non lo dico perché ho una querela. No, ma ti posso dire che bisognerebbe ricordare che l'amico Spadalino che abita in Veneto, bisognerebbe ricordare questo, che in questo momento l'unica persona che diciamo è un pericolo per il Veneto è un signore che... italiano, imprenditore, che è venuto dalla Bosnia, bravo, cioè che è bravo, venuto in Italia, se ne è sbattuti i coglioni. Perché se ne non lo dici? No, lo sto dicendo, bravo, ma lo sto dicendo, lo dici? Perché non ricordi a Spatalino, anziché lisciargli il pelo? Ma non gli sto lisciando il pelo, lo sto mandando in onda, il pericolo è non cosa. Arriva da un immigrato, ma arriva da un venetissimo. Perché non lo dici? Perché? Ma lo sto perché? Dicendo, lo sto cosa dicendo. Cosa ti hanno promesso? Aridaglie. A che ora parli domani dal palco della manifestazione delle destre? Ma perché c'è pure una manifestazione, manifestazione sì, domani c'è. Ma che domani, cazzo, sì. Queste cose le sai te? A che ora parli ma dal queste palco? Cose le sai a che te? Ora? Ma figuriamoci. Ma a che ora parli? Allora ragazzi, se avete un cagnolino malato di tumore, perché questa cosa è molto interessante, perché per carità, se uno è malato di tumore deve essere guarito, e ci indicano la strada la coppia Fedez-Ferragni, per cui io ho un'ammirazione sconfinata, perché sono due geni assoluti. Fedez è tra l'altro un grande ascoltatore di questa emissione radiofonica, i quali hanno portato la loro cagnetta, se non sbaglio, il loro cane, la loro cagnetta, in cura a Zurigo. Io la trovo straordinaria questa cosa qui. Adesso io, con tutto il rispetto per la coppia regale Fedez-Ferragni, grandissimo rispetto per la loro genialità assoluta, soprattutto nel fare quattrini, adesso io dico: ma non c'è una clinica in Italia? Ma per carità, poi uno può andare a Zurigo, ma davvero era necessario portare questa cagnetta in una clinica a Zurigo? Perché la cosa suona meravigliosa, non è meraviglioso? Uno di solito va a Zurigo, dice: vado a Zurigo. No, vado a Zurigo, certo. Perché vado in un posto super di lusso, in un posto dove fanno delle cure pazzesche, e hanno portato la cagnetta a fare una cura antitumore a Zurigo. Io lo trovo bellissimo, anche in questo, anche col loro cane, over the top. Ciao ragazzi, Mati sta molto bene. Ho già fatto tutte queste visite a Zurigo, è tornata, era Zurigo, super bellissimo. In forma, voleva mangiare, correva, proprio sembrava la solita cagnolina di sempre. Torneremo a Zurigo per la radioterapia. Io lo trovo bellissimo, cioè non lo trovo meraviglioso. Uno porta un cane, bellissimo, un gatto, un animale in cura a Zurigo per la radioterapia, ma è stupendo. Ma è perché ti. Ma per, ascolta, no, perché ma, non riesci a capire? Ma io non che sono sovranista, me ne sbatti con gli un cane. Ma certo, assolutamente, non lo sto contestando. Figuriamoci, uno c'ha il cane malato, lo fa curare, mica lo butta nell'immondizia. Assolutamente lo fa curare, appunto. Puoi spendere tanti soldi. Ma portarlo a Zurigo, non lo trovi stupendo? A Zurigo, alla fare ma la radioterapia, non so magari perché. Non c'è una clinica in Italia, non lo so, perché immagino la radioterapia sia uguale a Zurigo come uguale a Milano, cioè a Milano, loro abitano a Milano, ci sarà un posto dove fanno la radioterapia al cane, cioè immagino, magari no, non lo so. Però non lo perché so, a si Zurigo? Vede che non è un'eccellenza, no, perché si dico, vede che non è un'eccellenza, cioè, l'eccellenza si vede che è forse a Zurigo, può darsi, può darsi. Anche in questo i due si distinguono, capito? Che portano il cane a fare la radioterapia a Zurigo, amico mio. Io penso che sia andato anche da solo con l'autista il cane, bellissimo, è tornato con l'autista. Bello, stupendo. Dai. E domenica la riporteremo io e Fede a Zurigo per iniziare la radioterapia. Top assoluto. Raffaele da Torino, vai. Raffaele, allora, dimmi. Premettendo che è una bellissima storia capitalista quella di Fedez, no, era Ferragni. Ma è stupendo, no? Ma è stupendo. È meravigliosa. E il bello del capitalismo, a differenza dei socialisti che vogliono farci vivere tristi. Infatti chiamavo per quello, perché ho sentito ora, poco fa, il podcast di ieri, ed è incredibile come in Italia si fa passare per normale che un ladro automaticamente un evasore. In Italia paghiamo una marea. Cioè, stai di parlando tasse. Della vicenda del grande scontro Francesco da Firenze e Vissani. Ma io vorrei prenderlo io a quello lì e chiamarlo. In Italia ci rubano. Io ho 5.000 euro che devo tenere sul conto corrente per pagare l'anno prossimo allo Stato. 5.000 euro che potrei fare investimenti. Io non so quello che è successo. Posso dirti una cosa, Raffaele? Io non so quello che sia successo a Vissani nel merito, perché non conosco la vicenda. Però definire qualcuno evasore fiscale semplicemente perché ha avuto un contenzioso col fisco, una condanna poi convertita in 45.000 euro, per me è una follia, perché gli evasori fiscali sono altri. Non lo so, avrà sicuramente commesso qualcosa, però non è che se c'è un provvedimento del fisco contro un commerciante, contro un ristoratore, contro un esercente, ha sicuramente ragione il fisco, perché in Italia è pieno di casi di gente vessata anche per minchiate, diciamo la verità, è così. Poi ci sono una marea di evasori, non c'è dubbio che ci sono una marea di evasori, e non è che se c'è una sentenza allora è sicuro che ha ragione il fisco, perché è pieno di gente che invece viene perseguitata, ristoratori eccetera, e magari hanno ragione. Io non lo so, non conosco il merito di quella vicenda, però non è che ha per forza ragione Francesco da Firenze. Poi, per carità, è stato bravo, ha incalzato all'attacco, quello che vi pare, però ragazzi, ma chiudo una cosa: gli albergatori che dice che deve dare i soldi a chi? I soldi sono dei cittadini. Io non è che io pago le tasse perché lo Stato me lo impone, ma non faccio un bene a nessuno, anzi faccio un bene. Fermo lì. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. L'Islam ci massacrerà. Non ho niente a che spartire con l'Islam, con Maometto, con il Corano. Io sono italiano e me ne frego se il Papa è di diverso avviso. Sua Santità, per favore. Sua Santità, non insultare. Non è servita a niente la lezione di Lepanto. Siamo italiani, Sua Santità. Sua Santità. Se sono io tuo fan, vero. Sua Santità. Posso mandarti a fanculo. Le solite pirlate da populista. Aridateci Papa Ratzinger! E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato per questo fatto? Ma certo, eccellenza. Lo senti. Non ho rapporti sessuali da 6 mesi. Che voglia di cazzo, mamma mia. I love my radio. Che voglia di cazzo, mamma mia. Ma viaggio da Cosenza e adoro quando una donna mi preme il suo culo sulla mia faccia. I love my radio. Ciao, sono Salvo da Enna e anch'io adoro farmi fare le seghe coi piedi. I love my radio. Rocco, che cazzo fai? Sempre scopando qui. Andiamo ragazzi, Massimo da Bergamo, andiamo avanti. David, andiamo? Vai. Ciao a tutti. Certo, dove vuoi andare? Andiamo. Agli anti-Covid consiglierei magari dal 20 febbraio in poi di venire a Prusone Valseriana qualche giorno. Sì, certo. D'accordo. Per carità, certo. Ma non te la devi prendere, cioè non è che te la puoi prendere con me, cioè devi rivolgerti a quelli là che agli dicono anti-Covid. Sì, ma non è che gli anti-Covid, ragazzi, vedremo poi alla fine quale sarà il bilancio dei morti, la percentuale. Nessuno nega che ci sia stato in alcune zone, in certi momenti, in certe settimane l'inferno. Nessuno nega. Poi il bilancio è stato pesantissimo. Ma certo, non c'è dubbio. Che era una fantasia. Ma no, ma quello è nessuno. Surreale. Ma no, ma nessuno lo dice, se non qualche pazzo. Anzi, no, ma tu, per esempio, Parenzo, ogni volta attacca Zangrillo semplicemente perché ha detto una cosa molto chiara: che in questo momento le evidenze cliniche ci dicono che non è più pericoloso come prima. Appunto, è un momento, tu lo attacchi, lo attacchi. Ma che c'è uno, vaglielo a spiegare. È quello là che non si è voluto ricoverare. È uno che si è praticamente quasi suicidato. In generale, le terapie intensive sono diminuite. In più di questa malattia, perché c'è un irresponsabile, perché il virus viene preso prima, perché il virus non è che è meno potente. Il fatto che quello sia in terapia intensiva vuol dire che ha una potenzialità devastante. Ma io non ho detto nulla, non ho mai detto il contrario. Avete detto per giorni che non c'è più problema. Ma figurati, Lorenzo, dimmi. Certo, in generale è così. Dimmi. Lorenzo, ascolta, io ho una perversione che secondo me ti potrebbe gasare. Sì, ascoltami bene. A me mi piace leccare la figa ciclata. Cioè, secondo me è poesia. Ho capito, però questa qua è una perversione di quelle qua forti, è da ricovero, direi. Parenzo, non è da ricovero questa roba qua. Ma non qua. Ho capito questa... neanche cosa allora, vuol fare questo. Allora, qui, questo qua è un amante del leccaggio della figa ciclata, ha detto, che è chiaramente non so lo ha detto anche in un modo, lo ha detto anche in un modo aulico, diciamo, volendo, no? Però, ah, ragazzi, mamma mia. Io penso che sia uno schifo. Siete uno schifo. No, ma io lo siete uno schifo. Lo trasferiamo. Trasferisci questo tuo schifo a Lorenzo da Milano. Io non c'entro niente. Scusami. Fa schifo. Dopo ti ho anche visto sulla 7, ero soddisfattissimo. Ma che c'entra quello, scusa? Ma non dica, quello. Non accosti questi due argomenti insieme, non mi interessa. Lei è un maiale schifoso. Ma ho capito, tu puoi avere qualsiasi bocca, ma è una cosa oscena, amico mio. Ma è una cosa oscena, ma lascia perdere. No, ma Lorenzo, adesso tu secondo me lo stai dicendo apposta per fare casino, ma in realtà non puoi amare una cosa di questo tipo. Bisogna, ma no, io non provo, non voglio provare, chiaro? Non voglio provare. Perché non mi va di provare questa roba? No, ma sono aperto. Ma cosa vuol dire? Mi può fare schifo qualcosa? Poche cose mi fanno schifo. Una delle cose che mi fa schifo è esattamente quella che hai detto. Potrò avere schifo per quella roba là. Ciao Lore, ciao. Lucio dalla provincia di Rimini, avanti tutta, dai. Ciao Cruciani, vai, ciao, costano tempo, soldi, no, ma insomma tempo e denaro. Avevo un cane, perché avete fatto la pubblicità a Fedez, che ha portato, non abbiamo il fatto cane nessuna pubblicità, abbiamo mandato in onda una pubblicità. No, quale pubblicità? Abbiamo mandato in onda un audio della Ferragni che ha portato, che ha detto di aver portato la cagnolina a Zurigo, perché a farsi curare. Soldi. Beh, ma allora, certo, non c'è dubbio, ma nessuno che è una novità questa roba qua, che hanno i soldi, no, una cosa, no, è un torto avere i soldi, è un delitto avere i soldi, è un crimine avere i quattrini. No. Mamma mia. Io voglio dire. Sì, dimmi. Aveva un cane di 16 anni che aveva un tumore maligno all'utero. Sì. Ho speso 3.500 euro. Per portarlo dove? In un veterinario della zona dove abito. Non lo so, magari ti ha rubato i soldi, non lo so. Ce lo sai no, tu. Non è che mi ha rubato i soldi, l'hanno operata. Io dopo non so se mi ha rubato i soldi, io non sono veterinario. Però ci sono tanti italiani medi che ormai non esistono più. Ma che vuol dire? Tanti cani. E allora che non riescono a portarli, magari non hanno i soldi non per portarli. Non possono portarli a Zurigo. E chi se ne frega? Ma come quelli che si possono sacrifici. Che c'entra? Adesso vogliamo essere razzisti o vogliamo discriminare Fedez e la Ferragni perché hanno portato la cagnolina a Zurigo? Solo dire, che forse la pubblicità. Ma quale pubblicità? Pubblicità nessuna, tra virgolette. Ma non c'è nessuna così pubblicità, abbiamo dato una notizia che peraltro non è manco di oggi, è dei giorni scorsi, cioè ho riesumato questa cosa. Ma ci sono tanti italiani. E chi se ne frega? Ma io penso Quando dai veterinari spendono cappelli di soldi. Sì, ma ho capito, Lucio, io posso dirti una cosa. Allora, adesso non ci possiamo preoccupare pure del rimborso per la cura ai cani. Perché bisognerebbe creare una mutua per i cani. Una mutua per il cancro ai cani. Una mutua per il cancro. Ci manca anche quello. Quello si sta parlando. Un cane che ha avuto denunci. E allora? E le cure sono a carico dello Stato? E le cure sono a carico dello Stato. Sì. Vogliamo pure mettere questo a carico dello Stato? Cioè vogliamo far pagare pure la cura al cane? Ma dai. Senta, non è il momento di introdurre. Sì, ma ho capito, le tasse che non è il momento. Di introdurre... forse dedurre, ecco, le spese per i cani, sì, no, si possono forse Andrea, dedurre Andrea appunto. Davarese, fammi sentire Andrea Davarese. Deduzioni fiscali, no, ma adesso comunque, mi senti? Dimmi, ti ciao, sento. Ciao, praticamente anche noi siamo tre rosso. Amici. Abbiamo? Siamo tre ho due pesciolini rossi. Mi senti? Sì, ti sento. Sì, dimmi. Siamo tre amici, tre studenti universitari, ci siamo conosciuti in campus e allora praticamente ci sono io, c'è Alberto, gran maniaco, gran frequentatore del Maxim, sì. E poi c'è Laura. Noi due abbiamo una relazione con Laura. Ora io perché ti sto chiamando? Perché ci sono dei problemi grossi secondo me. Cioè, allora, la cosa è questa, siete due amici, Andrea Davarese e un altro, che avete una Alberto. Relazione aperta, Alberto, avete una relazione aperta con Laura, giusto? Esatto. Ma esatto. Cioè avete una relazione aperta nel senso che avete un trisom, che... un trisom. No, trisom mai. Noi semplicemente siamo amici, scopate, andiamo ogni a letto. Cioè, esatto. O lei vi scopa voi, diciamo. Ve la scopate, più probabile, scopa voi, diciamo, a turno. Vabbè, sono cose che succedono normalmente. Allora? Beh, succede. Però, no, la questione è questa. Allora, io e Alberto abbiamo innanzitutto una passione per i piedi non ricambiata da lei. A lei fanno schifo i piedi. Numero due, come ma di solito le donne non sono grandi amanti dei piedi, ma lei fanno proprio schifo. Comunque, cioè in che senso fanno schifo, volta, i suoi piedi volta. O i vostri piedi? Non ho capito. In generale, le prime volte a me. No, ma io scusi, non ho capito. Chi condivide, cioè questa ragazza diciamo, non è la fidanzata di nessuno, scopa con tutti, sì, sanno tutto. Sì, voi... sì, c'è consapevolezza, e non c'è mai gelosia. Mettiamo che sia tutto vero. Non c'è mai gelosia di uno. Io te la passo a lei, tu non ti preoccupare, fammi finire. Ti dico una cosa, seconda cosa, lei petto di pollo, a noi piace un po' di pelo. Terza cosa, e questo è il motivo della chiamata, perché io ho detto la devo fare parlare con Cruciani, ti giuro, non siamo, questa non viene lei, ma dice che è ordinaria amministrazione, dice non vi preoccupate, sia a me che ad Alberto, io non vengo mai nella mia vita. Cioè come nel senso, è una che non è, guarda che è comune una cosa del genere, cioè l'orgasmo difficile delle donne. Ma te la passo, ci vuoi parlare? Sì, ragazzi, però facciamo, passa, ma come dai, si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Laura, sì, Laura, è vero. Sì. Allora, Laura, però, adesso, innanzitutto, è tutto vero o mi è stata a perculare? Perché qui siamo noi abituati al perculamento ogni tanto, no, non tanto. No, tutto vero, cioè nel senso, cioè, abbiamo tutti scopi insieme. E tu scopi con tutti e due? Ogni tanto, dipende dai giorni. Come dipende dai giorni, cioè non c'è uno privilegiato, non sei partita da uno e poi sei passata all'altro. Ma a 4 mesi di quarantena conosci uno, poi conosci l'altro, poi vabbè, mettiamo che tutto questo sia vero, il punto è un altro, che tu non riesci a venire. Chiarisci le perché cose. Non dovrebbe essere vero, Madonna. No, che ne so, non lo so. Comunque, non riesci a venire, questo è il punto. Ma sì, in generale. In generale è molto difficile farti venire. Cioè, con me stessa sì, ma con gli uomini. Oh. Lo so, perché là è una questione di movimento, di trovare il punto esatto, di trovare alcune persone. È una questione anche che gli altri hanno voglia di starti a sentire certe volte. Cioè, in che senso? Non seguono quello che dici, cioè, oppure sì, fanno quello sì, che vogliono, vengono troppo presto. All'inizio partono come li voglia loro, come vogliono loro, quindi li lascio fare, poi dopo un po' mi scoccio. Guarda, una cosa molto, posso dirti, una cosa molto comune, cioè questa cosa qua. Il problema fondamentale è capire se una persona, innanzitutto tu, bisogna dire una cosa, sicuramente non sei multiorgasmica, cioè non sei facile a venire, cioè ci vuole del tempo, del lavorio, eccetera, eccetera. Sì, mi devo impegnare. Il punto è, per i maschi è un problema grave questa cosa, posso dirti? Ma cosa porta una ragazza così a mettersi in mostra in questo modo, così? Io sono dispiaciuto. Ma no, ma lei si vuole ma perché facciamo così, bigotti? Cioè, siamo nel 2020. Si può parlare anche di cose personali. Dispiaciuto. Non c'è dubbio. Allora, posso dirti una cosa, scusami, Laura, la cosa è molto semplice. Tu potresti tranquillamente, durante la penetrazione di uno dei tuoi due amanti, eccetera, potresti tranquillamente toccarti e la facciamo finita lì. Un suggerimento che mi viene dal di là del vetro. Una volta mi è capitato di venire a letto con un ragazzo, con mia grande sorpresa, però... No, ma potresti aiutarti da sola. Cioè, ti aiuti da sola mentre ce l'ha. E così si finisce così. Da anche consigli. No, ma così i due si sentono anche un po' soddisfatti, perché evidentemente non sono capaci di farti venire, i due signori. Vengono troppo presto, forse, o no? No, ma c'è nel senso... Non toccano le parti giuste, non sono concentrati su di te. Questo è il punto fondamentale, bisogna essere concentrati. No, sono concentrati, mi scoprono anche per diverse ore, però... Però niente. Però io, cioè, ogni tanto mi capita di venire, però è raro, è raro. Dura. Lo so. Ci sono le multiorgasmiche, c'è chi è come, c'è Laura, poi fermi tutti. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta La Zanzara. la gente muore di fame. E la gente muore di fame. Rocco, che cazzo fai? Sempre scopando qui. Alessio da Pavia, segnatelo sto nome, segnatelo così dopo vai su internet per vedere chi cazzo so io. Alessio da Pavia, se a settembre non riapri io vengo giù e faccio un casino, non hai capito? Alessio da Pavia, segnatelo sto nome, vaffanculo Cruciani. Segnatelo sto nome, ascolta a me, così no. Vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. La gente non ce la fa più, noi parliamo, ma cominceranno cose molto gravi in questo paese se non ci si mette rimedio. Mamma. Qui questi giovani, che poverini, fanno anche tenerezza forse, non lo so, qualcuno questi giovani sì, qualcuno africani un po' di meno. Vengono qua, lo vedi che non hanno rispetto, sono prepotenti, pretendono, vogliono, cosa fanno? Vanno in città, vanno a spacciare, se possono stuprano, perché sono... Non tutti sanno, chiaramente, no, non tutti, però Mario, sanno che in questo paese non gli succederà nulla o quasi nulla. Allora, caro David, io chiamerei un signore che si chiama Angelo. Che vergognosa conversazione, vergognosa conversazione, critica al merito, non vergognosa conversazione, una conversazione totalmente priva di qualunque fondamento. Cioè, qualunque. Tu stai dicendo che Giordano e la Zanicchi sono due razzisti. Cioè Giordano e la Zanicchi no, sono due razzisti. Il razzismo è una cosa troppo seria. Il razzismo è una cosa troppo seria per essere affidata in quelle mani lì. È troppo serio il razzismo. Oggi torna così, ragazzi. Se vi siete salvati la diretta siete miliardari. Fratellino, prendete il muro, fratelli! Hanno ridato, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, hanno ridato la patente a 1727, World Star a 1727, detto anche, no, Algero, detto World Star a 1727. Chiamiamo David. Pronto? Chi è Algero? Chi è? Oh! Mamma mia che palle questa zanzara, guarda prima o poi che schiaccio, eh. Che cazzo, io però avrei un po' di timore, avrei un po' di timore. Fossi... perché sto pure in palestra, fossi... lo dico, qua mi sta salendo il testosterone e sto avvelenato. Ma stai avvelenato come una bestia, amico mio. Quando, Parenzo, quando Algero comincia a dire no, ti schiaccio, io fossi in te, che sei a Roma, io sto a Milano, fossi in te comincerei ad avere un po' di paura. Algero, ma che core, Algero è un criminalotto, un ragazzotto che dovrebbe rieducarsi, dovrebbe essere preso da un... Non ti preoccupare, tu fatti acchiappare un attimo, poi vediamo. Preso da un tutore e portato in una biblioteca e dovrebbe passare delle ore. Tutore, non ti preoccupare. No, un tutore nel senso di un tutor, no, un insegnante. Sì, è chiuso, e lui faccio proprio te faccio pure proprio, capito come? Lui ti fa mettere un altro tipo di tutore, però sulle gambe, un altro tipo di tutore. Dovrebbe essere portato in una biblioteca e dovrebbe passare molte ore in una biblioteca seduto a leggere, a riflettere. Sì. A te faccio leggere il testamento. Ma che fai? Però la notizia è questa: che la Repubblica la Italiana è che a Radio 24 tu chiami dei criminali. Questa è la notizia. Ma criminali, vera, dai, vera. Ma criminali se fossero questi cos'è? Criminali, dai, no, su. Ho capito, va bene. Dai, no. Su. Sì, ridi. Ma io non rido niente, io sono preoccupato. Scusami, allora la notizia è questa: che lei abbia la patente. La Repubblica Italiana, anzi, la Repubblica Italiana ha restituito, dopo tutto quello che ha fatto, il filmato, lo sapete, fratelli, ha fatto il giro, direi, del globo. Ha restituito la patente. Ora uno si può domandare, Farezzo, ma com'è possibile questa cosa qua? Ma esatto, com'è possibile? Com'è stato possibile questa cosa? Ma perché 17 è così, è 17-27 è così, ridategli la patente e sbrigatevi che devo andare in giro a prendere i muri. Ma no, ho capito, adesso non credo che di fronte alla polizia locale di Roma tu abbia detto una cosa del genere. Peggio, la prima cosa è, ha detto, sei pronto a prendere un altro muro, gli ho fatto, starai a vedere. Ma ho capito, però, vedi, alcune cose in Italia, però, caro Parezzo, senso, forse le cose non funzionano, perché se danno, no, se ridanno la patente al signor con tutto il rispetto. Ma funziona tutto, funziona qua, se no io la patente non la ripiavo. Così, beh, ho capito, bene. Certo, perfetto, tu prendi un muretto, fai il filmato, eccetera, ti ridanno la patente, c'è qualcosa che non funziona. Detto con tutto. Prendo il muretto, prendi i soldi, io, va bene così, non cambiate nulla, il sistema è perfetto. Beh, intanto posso dire un'altra cosa, la mamma macchina mia. Credo che sia ancora sotto sequestro la macchina, no? Sì, per adesso è ancora sotto sequestro la macchina. Ma è questione di poco tempo, è questione di poco tempo, già ci stiamo muovendo. Tu e tuo tu e il tuo gentile papà, mi sembra di capire, no? Tu, no. Tu, tutti, tutti. Che banda. Che banda. Scusami, mi risulta anche che tu sei fidanzato, ma questo lo si sapeva dai social, con una signora che nel passato, non so se lo fa ancora adesso, ha fatto dei porno, cioè ha frequentato il mondo del porno. Com'è che si chiama questa qua? Roma di cognome, come si chiama? Giorgia Roma. Giorgia sì. Roma. Beh, amico mio, com'è convivere con una che fa i porno, che ha fatto i porno? Cioè, come si svolge la vostra convivenza? Mi sembra da qualche filmato che è anche un po' c'è della turbolenza ogni tanto. Ci sono dei litigi. Turbolenze in che senso? Flatulenze, dici? Ma flatulenze sì, ho sentito che è scorreggiato davanti a lei, però quello è normale, quello lo faccio pure io. Cioè, non è una cosa da... Cioè, proteine quelle, Sì, è vero. Ma guarda, scorreggiare, devo dirti la verità, scorreggiare quando uno sta insieme a una persona, scorreggiarsi in faccia... È una questione di intimità. È una questione di intimità, questo devo dire la verità. Che siete delle brutte persone, posso dirvelo con grande... No, ma su questo però ha ragione Algero. Dei gran maleducati e delle brutte persone. Ma ha ragione Algero su questo, è una questione solo di intimità. Dunque, fatto che scorreggi davanti alla fidanzata non c'è nulla. Ma ecco, il rapporto sessuale con una porno attrice, come funziona? Cioè, pretende grandi prestazioni, sicuramente, questo è il punto, no? Ti dico la verità, a me lei ha confessato che sono stato il migliore per adesso. Ma che cazzo stai a dire, dai, su. Come no? Ma io martello proprio, martello. Cioè, però io direi una cosa, caro David, per la sua rapporto con la legalità, il suo rapporto con la legge, è un ospite perfetto per venire alla Sette in Onda, il signor Sai Algero. Che non credo? Sai che non credo proprio. Secondo me, se tu presenti in studio alla Sette, trasmissione in onda, Algero tutto tatuato, con tutti chi? I tatuaggi lì. Sì, con ma è un bocco col suo petto, ti dico, so... O sai come so? Mamma mia, sto tutto carico. Ma in bocca un confronto intelligente sarebbe tra questo signor Algero eccetera, sì. E magari 7, il professor Luciano Canfora. Sì, sarebbe stupendo, sì. La legalità. Sì. Algero, la legalità. Per te... Lei lo conosce il professor Canfora, uno dei più grandi intellettuali italiani. Canfora, Luciano Canfora. Canfora, no. Canfora, ti posso dire sì, Canfora, no. Non lo conosce. No. Conosce le anfore, ma non conosce. Il professor Revelli. Ma perché gli devi fare queste sociologo. Domande? Ravanelli? No, Ravanelli è un altro, Revelli. Galli della Loggia, Ernesto Galli della Loggia. Io del resto conosco solo il coglione Ernesto, ti dico la verità. Non li conosce questi comunque, qua. Ma il confronto è perfetto. È una persona di un'ignoranza e di un'ignoranza abissale, quest'uomo. Ma non c'è bisogno. Vabbè, dai. Comunque, ragazzi, secondo me lei, la tua amica, la tua fidanzata, non è contenta delle tue prestazioni, amico mio. Secondo me, io penso che non sia contenta delle tue prestazioni. Secondo me vorrebbe tornare. No, così. Secondo me no. Secondo me, dopo un po', una che ha fatto porno, amica mia, è abituata a grossi calibri, è abituata a roba forte. Ma che sta a fare? Smenti le mie misure, le mie doti? No, non dico questo. Guarda che poi qua, se sente questa conversazione mio padre, si fa girare pure lui i coglioni. Perché? Perché tuo padre che c'è? Perché il DNA è quello, no? È il gene, ma ha trasmesso lui. Poi chi è che insinua queste cose? Chi è stato a dire queste cose? No, io non dico niente. Io dico che una porno attrice abituata a grossi calibri, a un certo punto, quando incontra uno normale, dopo un po'. Allora, partiamo dal fatto che nel porno è tutto finto. Tutti quei bananoni che si vedono sono tutti siringati, tutti punturati, non c'è neanche un'erezione naturale. Parliamo di questo. Invece tu non prendi niente. Tu non prendi niente. Io che devo prendere? Io quello che devo prendere è l'ormone da palestra che mi faccio in palestra. Comunque, è tutta una questione di dinamica. Vabbè, comunque mi stai dicendo che la tua fidanzata è soddisfatta del vostro rapporto sessuale? Bah. Mi posso permettere di avere dei dubbi, amico mio. Mi posso permettere di avere dei grandi dubbi. Ma sicuro, ma con tutto quello che ha pippato questo qui non gli funziona neanche, figurati. Bah, adesso, questa è un'insinuazione grave, Alge. Questa è un'accusa vera, cioè questa è calunnia. Ma quale calunnia? Questa è calunnia vera, cioè questa è calunnia. Certo. Questo è da tribunale, cioè, questo è da tribunale. Ma quale tribunale? Questo è da tribunale, ma portano in tribunale, scusa, sta dicendo che praticamente con tutto quello tribunale? Che ti sei fatto non ti si alza più. Questo ma è tribunale. Sì, ma mi pare evidente, dai. Vabbè. A parte che poi ci stanno le prove pure i video su determinati siti hot. Vabbè, comunque posso dirti una cosa. Video, la cosa incredibile è questo, che la Repubblica Italiana ha restituito la patente ad Algero. Questa è la novità più incredibile. Questo è incredibile. Ma ci mancherebbe, ma che ho fatto? Ho preso un muretto. Hai filmato 120. Ma come, ho preso un muretto. Ciao! Ma quella roba da tutti i giorni. Ciao fratelli, ciao, a presto, ciao, ciao. Ciao, ciao. La Zanzara. Buonasera, bentornati fra di noi. Sulle note dei Rolling Stones che suonano qui a fianco vi presento l'ineffabile David Parenzo e l'eclettico Luca Telese. Barisoni gay. E ti volevo dire, fighissima questa cosa del palio, però se mi ritornate nell'Aquila io mi incazzo come una vipera. Cioè alla si manda il Parenzo nell'Aquila, te vieni in Pantera insieme a Genta, che sarà anche il modo magari poi di fronteggiarsi e picchiare il Parenzo, va bene? E poi niente, finito, basta sta storia dell'Aquila, avete rotto il cazzo. Cioè dovete venire, te devi venire in Pantera, il Parenzo si manda dai ripurgati dell'Aquila, chiaro? Posto, dai cazzo, forza. Ma voi siete un cortocircuito di pensiero, volete fare liberali e poi siete arcaici, volete essere per tutti e poi siete dittatori. Parenzo vuole essere per tutti, è un dittatore, ci impongono questa società senza senso, con un'integrazione che non è fatta, messi qua questi neri a non fare un cazzo. Parlate degli animali come non lo so, cioè gli animali del paglio, fortunatamente il paglio non si fa perché morivano gli animali, è oggettivo, non devono correre in una piazza come quella e poi venire abbattuti, vengono benedetti in chiesa e chi se ne frega, coglione. Lei si sta sbagliando. Samuele da Roma, avanti tutta Samuele. Ma scusa, ma come si permette quell'amico senese della Pantera di dirmi sì, io è vero, sono curiosamente dell'Aquila, giusto, quale giusto. Ripurgato? Pronto? Noi ci sa l'uccello grosso, il più grosso della città. Pronto? Ma cosa dice quello lì? Siamo matti. Sì, no, quando uno pronto? È di una contrada, è di una contrada, punto. Che cazzo vuol tu dire? Vai, tu vai in Pantera. Aspetta, per carizia, vai in Pantera. Ma no, non vado da nessuna, ma non vado da nessuna parte. Non vado tu da stai molto attento. Ma non vado da nessuna parte. Ma non vado fai le tue scelte. Ma io le scelte. Ma è quello che lo dici, io non c'entro niente. Fai le tue pronto? Scelte perché io ho scelto 15 anni fa pronto? Dove stare e sto là. Calma, quindi calma. Fai le tue scelte, guarda. Pronto? Fermi tutti. È con noi Mario Adinolfi. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao caro. Ciao Davide. Allora, ciao. Innanzitutto bisogna dire che ha scritto un libro che si chiama Il grido dei penultimi, lo citiamo perché siamo molto anche bene. Ogni tanto siamo gentili. Il grido dei penultimi che è di You Can Print, cioè dire lo ha editato lui stesso. Non so di che cosa si occupa, comunque se siete curiosi andate a vedere. Dopodiché Mario Adinolfi è uno di quelli che potrebbe finire al patibolo se fosse approvata la legge contro l'omofobia, detta contro l'omofobia, eccetera, eccetera. Innanzitutto perché recentemente ha affermato che Rai 1 è in mano a una lobby gay, giusto Mario? Cioè, lui addirittura hai fatto un logo gay 1. Ma come si permette? Ho, ma come ho si permette? Parlato di omosessualizzazione di Rai 1 e l'ho chiamata gay 1. Gay 1, questo vuol dire al di ma là degli slogan, motivo, naturalmente che tu dici che domina che una lobby gay, no, ma io lo dico, uno è libero di dirlo, io non sono d'accordo, per esempio. Però adesso Mario mi spiegherà perché Rai 1 è diventata in mano e ma è caduta cosa c'entra in mano. Che cos'è uno? Però cosa non fa è che sotto tu le puoi coperte finire, uno? Non è che tu puoi finire accusato in tribunale o punito o multato, ma certo, perché punito, dice punito, ma che certo. Punito, non dire cazzate. Mario, ma non è questo è esattamente il punto. Io ho fatto questa campagna in questi giorni proprio perché è accaduto, perché hanno rimosso Lorella Cuccarini dalla conduzione della Vita in Diretta. Se avessero, no, ai tempi in cui rimuovevano Lelio Luttazzi, come si chiamava il comico Luttazzi, giusto? Sì, c'era sì, per, sì. No, ci avrebbero fatto Daniele Luttazzi. Daniele Luttazzi, sì. 46 settimane di predica. Sì, però questa la RAI è normale che facciano fuori uno perché semplicemente che è cambiato il padrone. Perché cioè... è cambiato il colore, però quando cambiava colore, che era Berlusconi che mandava via Luzzatti, era un problema. Vabbè, ma questo è un altro discorso, che c'entrano i gay? Una mamma cattolica di famiglia per lasciare la conduzione a un giornalista notoriamente convivente con un altro uomo. E, ma chi se ne frega, cosa vuol dire? Ma mica me per quello. Ma quello che, scusami però, sì, quello che uno fa sotto le coperte, chi se ne frega? Aspetta, la conduzione delle ore 13:30-14:00 è in mano a un omosessuale, se quella delle 16 è in mano dei contenitori è in mano a un altro omosessuale, se l'altra, diciamo così... i nomi li posso fare adesso, non sarò inelegante e non farò i nomi. No, ma facciamo il dato, voglio dire, chiaro, tu stai parlando di Alberto Matano, di mio amico di Pierluigi Diaco. Ma ho capito, ma chi se ne frega se sono gay questi qua? Un attimo. Se io rimuovo Lorella Cuccarini, mamma cattolica, quattro figli... Ma non l'hanno rimossa perché è mamma cattolica, non è mamma... L'hanno rimossa perché cambia il colore politico. Certo, certo, certo. Allora, io voglio capire se quando cambia colore politico, tendente, diciamo così, dal rosso verso il blu, e i rossi possono protestare dicendo che è una grave lesione della libertà, se invece avviene che l'arcobaleno scalza completamente la rete pagata dalle famiglie italiane, la tradizionale rete delle famiglie italiane, dove 29 milioni di italiani regolarmente sposati pagano il canone in bolletta a fronte di 9.000 civili uniti, diciamo così. Allora? Forse io potrei dire, e questo è il primo punto, che questa è una rimozione per ragioni politiche contro cui io protesto. No, ma no, tu scusami, seconda scusami Mario, io aspetta un attimo, fermo un attimo. Allora, io penso aspetta un secondo. Chi è che omosessualizzazione che da Palazzo Chigi l'ho scritto esplicitamente arriva fino a Rai 1. Cioè tu stai dicendo che Palazzo Chigi c'è una lobby gay a Palazzo Chigi? Cioè Casalino sostanzialmente Casalino stai dicendo che le nomine in Rai, queste sono nomine. Ma perché ti devi occupare di che cosa fa uno sotto le coperte? Occupati di cosa fa uno, non dei suoi gusti sessuali. Terza questione. Se lo affermo, devo andare in galera? No, questo no. Assolutamente. Sì, perché fai una... No, in galera no, ma multato sicuro perché fai una discriminazione. Quella legge cosa dice c'è? Ma io perché io? Ma scusami però Mario, fallo finire. Dice che io che sono presidente di un'associazione che peraltro ha nel simbolo la scritta no gender nelle scuole, in quanto presidente di un'associazione sono passibile di 6 anni di carcere per le mie affermazioni. Vabbè, adesso non esageriamo, nessuno ti manderà in carcere perché tu dici che c'è una lobby gay alla RAI, dai, su. Quando ti dicono devi essere multato, non dicono che io devo essere sanzionato. No, ma infatti questa è una follia, secondo me. Guarda, che fondamentalmente è la stessa identica cosa, solo che vogliono mettere in condizione con la spada di Damocle dei 6 anni di carcere di non aprire più bocca per quelli che hanno però scusa, qui posso dirti nel merito, come cazzo fai a dire che esiste una nomina in base al fatto che sono omosessuali, gay, eccetera? Cioè, secondo te c'è un gay che sceglie un gay, non per le sue abilità, non per le sue capacità? C'è un gay che sceglie un gay? No, leggo una filiera di nomine lottizzate in Rai, lottizzate esattamente come sono state sempre lottizzate. E guarda caso, a Rai 1, che è sempre stato un territorio dove era molto difficile che si affacciasse... Cioè, c'è una preminenza gay nella conduzione. Ma c'è una competenza, non di dove uno mette... Ma io dico, ma siamo ormai alla follia, siamo arrivati al fatto che Adinolfi mette il suo naso e il suo corpo dentro i letti degli altri. Io lo trovo agghiacciante. Io non voglio trovarmi Adinolfi nel letto. La questione rispetto al servizio pubblico radiotelevisivo pagato con il delle famiglie. Ma tu stai dicendo nelle lenzuola degli altri. Perché se avete un problema con la lottizzazione, le ragioni della lottizzazione io voglio analizzarle, voglio capire perché alcuni vengono rimossi e alcuni vengono promossi. D'accordo. E secondo te il motivo è solo uno? Cioè il motivo è che c'è una lobby gay che comanda e che mette il gay lì, il gay là. Ma osservo, io osservo, adesso non fare il paraculo, dai, hai fatto il logo gay 1, dunque. Certo, l'omosessualizzazione di Rai 1. Cioè, stai dicendo che alcune nomine vengono fatte esplicitamente non per merito, ma perché ci sono omosessuali, questo è il punto. Cioè, questo stai dicendo. Ho sottolineato il fatto che sono emerse improvvisamente carriere di omosessuali che fino a qualche tempo fa erano semplicemente impensabili a Rai 1 e adesso invece ostentatamente con grande arroganza si procede addirittura alla rimozione delle conduttrici fastidiose per lasciare scena unica. Scusami David, qui c'è una cosa molto semplice qua. Se uno dice ciccione di merda o comunque è tu un sei cretino. No, ma tu, a parte che tu l'hai detta gottardo, ciccione del cazzo, non so che gli hai detto eccetera una volta, per cui non beh, è ma quello di... era anche affettuoso in un momento di rabbia niente, però è vero che non succede ridere, non succede niente. Ma sì, no, ma infatti poi ho anche chiesto scusa a una persona in difficoltà, va aiutata, ma non è questo il tema. Ma adesso non esageriamo. Gli animali sono più uguali degli altri. Il abbiamo tema è che io non voglio trovarmi ad Inolfi nel letto. In galera. Adinolfi non si io non letto. Voglio trovarmi ad Inolfi nel letto. Politico. No, Adinolfi entra nel letto e io non lo voglio. Ma nel che letto. Te ne frega a te nel... di quello di chi è il compagno? Se Diaco è gay, se Matano è gay, se l'altro è gay. Nomi che sono dei conduttori. Cominciano a essere, diciamo, di quella maniera e mi fanno l'unico spot. Ieri sulla vita in diretta si invita solo Luxuria che fa la propaganda al DDL Zan. E la conduttrice alla fine della propaganda dice alla vita in diretta siamo tutti d'accordo con Luxuria, sono certo che anche tutti i telespettatori sono d'accordo con Luxuria, dico io non sono d'accordo. Tu mi stai dicendo una cosa. Avere la possibilità di dire scusami Mario, tu mi stai dicendo che fino a un anno fa a fare quel dibattito c'era Luxuria e qualcuno che tu stai dicendo adesso che c'è il comizio. Vabbè, adesso sarà successo una volta, sarà successo una volta, dai sempre. Su. Però voglio capire, succede se tu dici sempre. Se uno dovesse pronunciare la parola frocio con mettiamo che passa la legge, uno pronuncia la parola frocio, passa subito in galera, subito sono manette. Ma non credo proprio, non credo. Ma quali manette? Ma quale galera? Io pretendo solo ma non diciamo cazzate. Il conduttore ha detto che alla fine di quel comizio tutti i telespettatori erano d'accordo col comizio. Ma che e questa cazzate, cosa è insopportabile, è un problema di libertà. Scusami un attimo. La cosa insopportabile è avere Adinolfi nel letto che fa il censimento di chi fa l'amore in un modo e chi scusami, in un altro. Mario, se uno dice vabbè, d'accordo. Se uno dice mi meraviglio di David che non capisce il problema. Se uno dice, scusami Mario, se uno liberale, sì, ho capito, però fermo un attimo. Se uno dice che un gay è contro natura, secondo te va sanzionato, sì o no? Ma che ne so, ma assolutamente no. Ma la sanzione che senso ha? No, ma pure secondo me non ha nessun senso. Vabbè. Allora, qui si sta proponendo di mandare in galera dopo il lavaggio del cervello che si stanno proponendo dalla. No, ma in galera non succederà. Di multare, ho capito. Vabbè, ti devo salutare. Ciao Mario. Ciao. La zanzara. Da questo canale. Ciao, sono Manuela e anch'io squirto sulle traversine. I love my Mean Radio. Ciao, sono Zibo da Bari e adoro che mi si tocchi l'attaccatura pallica. Io potevo essere stipendiata. Ciao, sono Andrea da Numan e anch'io adoro leccare la mia ragazza sudata. I love my radio. Ne parleremo stasera. Intanto, caro David, mentre il mondo è ancora sotto scacco, bisogna dirlo, è ancora sotto scacco, soprattutto alcune parti del mondo, no? Del Covid, Mauro da Mantova, certo. Mauro da Mantova e Donato da Varese si attaccano a vicenda, amico mio. Un grande confronto. Bello, quando i mostri si eliminano tra loro, sembra di stare in una puntata di Blade Runner, ma è meraviglioso, perché questa trasmissione finirà adesso, per fortuna a luglio non riprenderà mai più, perché questo. I mostri si autoelimineranno tutti. Anche noi dovremmo chiudere l'ultima puntata sparandoci a vicenda. Sarebbe una meravigliosa fine. Meraviglioso. Cioè devono implodere tutto. Cosa? Tutto questo circo deve esplodere, capito? Esplodere. Addirittura, tutto. Sì, però io eviterei le pistole. Eviterei le pistole. Ascolto là. Farebbe, però dai, i conduttori che si uccidono, non era mai stato fatto, bellissimo. Sì, questo bello, devo dire. Dai. Devo dire che è bello. Cioè, lei come immagina la chiusura di questa trasmissione? Ma dai, immagino naturalmente che negli ultimi giorni la temperatura del confronto sale, il litigio sale e naturalmente i due conduttori che si ritrovano per la prima volta nello stesso studio studio per i saluti finali si uccidono naturalmente. La cosa ha un netto risparmio per l'azienda. Beh, ovviamente sicuro, non vengono più pagati. L'ho proposto naturalmente alla Rai per risparmiare, tagli sul personale, nuovo format, uccidere i conduttori in diretta. Dai che funziona, che è bellissimo, dai. E poi esplosione comunque degli ascolti. L'esplosione, Mauro Davarese contro Donato, contro Mauro da Mantova e Donato Davarese, naturalmente. Poi come si, tutte le pornostar che si uccidono tra di loro, Rocco Siffredi contro quell'altro, il camionista comunista contro quello fascista. Esplode tutto, naturalmente. Tutto. Vai con Donato, vai. Ma riguarda un 10 giorni fa che mi ha rotto i coglioni. Io stavo lì, porca puttana. Per i cazzi miei. Che è successo? Mi arriva sta telefonata, idiota. E io. Cioè, si sono chiamati. Pazienza che c'ho. Non riesce a farmi incazzare. Perché io vedo, credimi, parlare male di Mauro D'Amanto vuol dire come sparare con una bomba sopra una Croce Rossa. Cioè, io vedo questo, sparare su una Croce Rossa con Mauro D'Amanto. Cioè, stai appoggiando in questo Donato Davarese, cioè tra i due preferisci Donato. Tra i due preferisci Donato. Non importa di che colore sia il gatto, importante che prenda il topo. Qui il nemico principe è quella. Sono due matti, sono due fuori di testa, due poveretti. Però tra i due poveretti ce n'è sempre uno che è più idiota degli altri. Quindi in questo caso bisogna sostenere Donato contro Mauro per poi uccidere Donato. Mi fa pena, che te la chiarisci. No, se tu riesci a vedere quello che dici, è un bambino di un ragazzino di 14 anni, ragiona meglio di questo qua. Questo qua si crede Dio, fa discorsi proprio da bullo scemo. Ma non si rende conto perché lui è proprio fatto così, è malato. È un decelebrato. Questo idiota. Guarda, te lo giuro, bisognerebbe che la gente a questo smettesse di ascoltarle, e te lo dico qua, tutti quelli che lo ascoltano, adesso lo dico per la prima volta, perché lo voglio dire, perché mi ha rotto i coglioni, e gli mettono anche gli ok, sono tutte persone squallide, chi ascolta Mauro da Mantova è uno squallido. La reazione di Mauro, anzi no, forse l'attacco di Mauro, non lo so, la successione non la conosco, Parenzo, la successione di questo scontro, prima e dopo. Questa è l'unica trasmissione al mondo che addirittura ricostruisce uno scazzo tra due idioti. L'unica, non esiste un'altra trasmissione in cui tu prendi due idioti che nel corso degli anni telefonano, dicono stronzate, improvvisamente si autoannullano a vicenda perché gli idioti si uccidono a vicenda, e tu costruisci un pezzo di racconto su due idioti che si vogliono eliminare. Non esiste al mondo alcuna altra trasmissione. Coglione Cruciani, dimmi. Tu inizi che vuoi fare una faida con quell'altro nulla, di cui non dico il nome perché se mensi gode della mia visibilità. 15.600 visualizzazioni in 2 giorni, e l'altro 600 in due mesi. 600 basta, io 15.600, lui 600. C'è una differenza di 15.000, fa niente. Perché tu non hai quel modo di intervenire così. Tu copi come copi le canzoni, le musiche, copi anche me, copi tutti. Sei un clone, perché ricordati che ci vuole carisma. Io non ho il copione come fa Cruciani, manda il copione e intervieni a copione. Ci approccio anche con me, caro il mio nulla. Ma io non sono uno che copia, non sono uno che ci fa comandare. Posso segnalare che secondo me, tra l'altro, gli mancano anche un po' di denti, perché comincia a avere dei problemi anche di pronuncia, Maurone, cioè comincia a avere dei problemi proprio di dizione. Perché non gli compri un... una dentiera? Hai comprato un pullman a una puttana, compra la una dentiera per Mauro, oppure facciamo una grande raccolta per il prossimo anno. Ecco, la zanzara, se qualora il prossimo anno si decidesse di farlo ancora, potremo quest'estate dare dimostrazione di bontà e fare per tutto agosto sul sito una grande campagna, compra una dentiera a Mauro. Se si raggiungono quei soldi, la trasmissione per comprare la dentiera, la trasmissione parte, altrimenti no. Questa potrebbe essere un'idea, ad esempio. Io sono uno spirito libero, sono un cavallo di razza, non un ciuccio a comando come te. Mi spiace, sei un ciuccio, perché tu speri facendo la guerra con me, che con me la guerra non lo fai. Beh, soprassediamo sul resto. Intanto, caro Parenzo, voglio farti ascoltare un numero uno assoluto, il signor Fusaro, il filosofo della zanzara. No, a proposito del gatto, sai, ti che giuro. Mi ha bannato. No, dai, che possibile. Mi ha bannato. Ma che vuol dire bannato? Ti ha bloccato mi su ha tutti bloccato, i social. Mi ha bloccato. Sì, mi ha bloccato su tutti i social. Senti, senti sul gatto e l'immigrato, senti. Sono scene particolarmente urticanti quelle che giungono urticanti dalla Toscana e sì, che ci mostrano cosa? Un migrante che uccide un gatto e lo arrostisce sulla griglia, lo sappiamo, per poi dunque cibarsene. Potremmo anche chiamarlo la scena, potremmo chiamarla la scena del gattivoro. Poi va al punto, senti il punto, senti il punto. E che scene come questa del gattivoro diverranno sempre più la norma nel vero, quadro del nuovo ordine mondiale per plebi ma precarizzate, pauperizzate e terzomondizzate. Ma questo è pazzo. Il globalismo mercatista vuole portarci tutti alla ferina condizione di quel disgraziato in Toscana che si cucina il gatto. Vuole ma una plebe dice senza diritti e ridotta a condizioni di vita subumane. Dal gatto al globalismo. Emilio da Como, ma perché non gli dici che è un coglione? Perché non lo dici? No, sinceramente, perché il collegamento tra il globalismo, non so che cosa, è il ma gatto, dai, è ma tutto dillo, diffuso. Ha detto diglielo, delle stronzate, punto e basta. Perché devo dire che un ha detto una stronzata? Ma perché dai, imbarazzante, imbarazzante. Emilio da Como, e parla con chi, glebi, parla con chi lo paga. È sottoposta. Dimmi, Emilio, sottoposte, Emilio, dimmi, dimmi. No, chiamavo semplicemente perché ho sentito ancora un certo Spatalino. Sì, che non Spatalino so esattamente che cosa faccia nella vita. Ecco un altro. Sì, sì. Ecco un altro. No, volevo semplicemente dire che secondo me, mio parere personalissimo, è una grandissima testa di cazzo. Che non sa neanche quello che dice. Sì. No, testa di cazzo è uno che dice le sue cose, per alcuni è una testa di cazzo. No, non dice le sue cose, dire di persone sacchetti a perdere. Ma questa è vecchia storia, adesso te ne accorgi dei sacchetti a perdere. È un'espressione. Non è che tutte le volte io sento la zanzara. Sì, ma credo, ma è Spatalino, cioè, stiamo parlando di Spatalino, stiamo parlando, cioè, non è che lo dice, cioè, non è che lo dice un ministro. Dice sacchetti a perdere perché secondo lui gli immigrati che vengono qui sono dei sacchetti a perdere, cioè sono secondo lui sono tutti criminali. Che secondo loro non li chiamavano sacchetti a perdere, ma Stuck, che tradotto dal tedesco vuol dire pezzi. È la stessa identica. Vabbè, adesso cosa stai paragonando Spatalino a un signore che si chiama Hitler o a un nazista. Adesso, francamente, adesso un nazista, Spatalino. Il pensiero è quello. Posso dire il che. No, è quello. No, è semplice. No, no, no. È non semplicemente un poveretto. Tu dici che è un poveretto e basta. No, il pensiero sì, è quello. Ma non è quando il pensiero uno quello, dai troppa importanza a Spatalino, dai su, è, una, ma è un comico. Sì, è importante come un pelo di culo, lo so. È un comico, non dai. Può permettersi di ma lui non si sente un comico, però. Certo. Di persone che sono dei sacchetti a va bene, va benissimo, vabbè, ma quelli là, se qualcuno si sente offeso, lo querelasse, lo portasse in tribunale. Ma stai dando troppa importanza a delle pièce comiche. Che prenda atto, ma te lo facciamo. Ma te lo facciamo dire tranquillamente, amico mio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Bruno dalla provincia di Roma, vai Bruno, uno, dimmi. Ciao, ciao Cruciani, ti dicevo. Cioè, dimmi, dimmi, io dimmi. Io voglio parlare della Calabria e di quello spot che tu hai criticato così aspramente. Così aspramente, ho criticato uno spot creato da Klaus Davi, punto e basta. Non l'hai mai visto, non l'hai letto, non hai capito. Ho letto tutto, ma che dici? No, visto, come? Ma come non l'ho visto? Certo che l'ho visto. Che non ti sentiamo quello bene però, amico mio. Hai, sei collegato col viva voce o con l'auricolare, quello, sicuramente. Guarda, c'ho il telefono alla adesso ti sento bene, dimmi. Cioè il telefono all'orecchio. Vai, dimmi. Quello che è detto nello spot è assolutamente vero. Le spiagge sono più pulite in Calabria. C'è meno gente. Ma non in Calabria è così. Ma non c'è è così. In Calabria c'è meno virus in Calabria. È evidente, voglio dire. E chi è che si è offeso soltanto ma il hanno soltanto messo Zaia. Ma che Zaia? Ma ho capito. Perché un leghista? Perché hanno tolto la parola nord. Ma non c'è niente ma da ma che togliere, cos'è che hai detto prima? Un leghista, un nazista? Cos'è che hai detto? Un leghista razzista. Un leghista, cioè Zaia sarebbe un razzista. Cioè secondo te Zaia è un razzista? Ma scusa, ma devo trovare io i video di Zaia che criticava il sud? che parlava del sud come parassiti dell'umanità? Ma non lo so, non me lo ricordo. Se l'ha detto, se l'ha detto, se l'ha detto, ha sbagliato. Ma lascia perdere, ma lascia perdere Zaia. Quello spot lì, quello spot lì non è uno spot che fa un favore alla Calabria. Tant'è che tantissime persone che lavorano nel turismo si sono incazzate perché non c'è bisogno per attirare i turisti. Per attirare i turisti dal per te, chapeau, perché ti piace. Ma no, ma va bene. Che non solo ha fatto Klaus David si chiama David. Klaus David, comunque chapeau a chi ha realizzato sì, ma, questo spot, ma chissà perché non solo è stato efficace ma non solo è stato bravo dal punto di vista della comunicazione, è stato bravo, non c'è dubbio, è estremamente efficace. Sì, ma non è vero che là si, che là ci sono in, sì, ma non è vero che là c'è inquinamento. La Magna Grecia, sai cos'è la Magna Grecia? Lo sai cos'è la Magna Grecia? Sì, sì, lo so. Lo sai. Ma allora? Così perché in effetti anche tu sei un leghista. Ma vai a fare in culo, vai. Ma vai a fare in culo, Bruno, non rompere i coglioni con queste cose. Ma leghista dico, ma che vuol dire poi leghista? Ma una che sponsorizza sempre questi leghisti. Ma quale sponsorizza? Ma tu non sai manco che vuol dire sponsorizzare. Fermo là. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. La qualità dell'audio è pessima. Crucio, ma cosa c'hanno ste puttane che dopo un quarto d'ora devi venire? Oh, io sono lento, dammi una mezz'ora almeno. Invece queste dopo un quarto d'ora, 20 minuti. Amore, vieni. Lasciami venire, dammi un attimo di tempo, no? Cioè, pagato 100 euro per 20 minuti. Perché questa voleva che io venissi in fretta. Ma io non lo so, Crucio, dimmi tu qualcosa, per favore. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirigna. Non posso darti consigli, amico mio. Ognuno sceglie la prostituta che vuole. Ognuno si sceglie il proprio destino, diciamo. No, cambia prostituta, vai da un'altra prostituta, pagala meno. Ognuno che si dovrebbe vergognare per quello che fa. Ma non è vero, non ti devi vergognare ancora una volta. Se vai a prostituta, non ti devi come un cane. Ma perché uno si dovrebbe vergognare? Non capisco. Come un cane. Cosa incredibile. Vergognarti e non andare neppure più in giro per l'Italia. Statele muto, zitto a casa. Sei diventato di un moralismo incredibile. Sei diventato un moralismo incredibile. Ma quale morale? Un po' di etica, un po' di perché po' che di male etica. C'è alla morale, all'etica? No, ma non che c'è male c'è male, ma a dire che andare a prostituta è una cosa vergognosa. Sì, è una cosa vergognosa. È immorale. Pagare una donna per il proprio sollazzo è ignobile. Mamma mia. Nel tempo pensavo fossi cambiato, invece non sei cambiato. No, è peggiorato. Sei peggiorato. Sì, più figli hai, più peggiori, chissà perché. Sì, cioè, più figli hai, più peggiori, perché esatto. In modo sì, ti senti più responsabile bravo, di dare bravo. Un'educazione. Mi fa schifo al cubo, guarda, per ora è tra poco al quadruplo, ma è una porcheria. Questi che chiamano e si vantano di andare a prostitute mi fanno schifo proprio materialmente. E ti faranno sempre più schifo più figli avrai. Adesso c'è il quarto, adesso non penso che ci saranno. Dunque, un piccolo spiraglio. Nascere sta bimba, devo dire, spero per te di no. Posso dire come la penso? Spero francamente per te ma di no. Ma sai, caro amico, i figli ti fanno anche sentire giovane, perché ti obbligano in un certo qual modo a sintonizzarti con i loro bisogni, le loro necessità. Ho capito, però, e quindi ti mantieni, se vai ti a mantieni 5, fresco. Ma se giovane. Vai a 5 so cazzi, però. Se vado a 5 vado in default. Se vado a 5 vado in default. Roberto da default parenziale. Roberto da certo ci vuole. Ci vuole un altro contratto da un'altra parte, cioè ogni volta ci vuole un'altra radio, assolutamente. Sì, Roberto da fermo, vai, Roberto da fermo. Dichiaro fallimento. Povero? Ha dovuto mettere la mascherina, no? Chi? Per andare al negozio, no? Povero porro. Sì, ma io la metto sempre, per esempio, la mascherina quando vado in un negozio. Tu ti sei cagato sotto per due mesi. Certo. Sotto per due mesi. Assolutamente, tutto vero, tutto vero. In più a Bergamo. Tutto vero, tutto vero, tutto vero. Mi sono cagato addosso per due mesi, sì, è vero. Sì. Adesso, siccome i dati delle persone in ospedale... No, io non mi sto lamentando della mascherina, assolutamente. Dico semplicemente che quando vado in un posto chiuso, la metto, punto. Cioè, non mi sono mai lamentato della mascherina, no, figuriamoci. Ieri ha detto, povero porro, c'era la fila. Porro la pensa come la pensa, non la mi interessa. Porro la pensa così, mica ho detto che c'ha ragione su questo. Ho detto semplicemente Porro la pensa così, non se la mettesse, chi se ne frega. Qual è il punto? Hai sentito oggi Zaia che ha detto sta per il ricovero. Certo, ne abbiamo parlato prima. Lui lo ha detto, ripeto, per l'ennesima volta, per un signore che ha rifiutato, che pur positivo, ha rifiutato di andare a casa, insomma, di essere ricoverato, quello che è. Quello è giusto, naturalmente. Rischio alto, Giuseppe, se rischio alto questa cosa, noi ci scambiamo veramente. Ma ragazzi, ma che c'entra? Con i controcazzi a settembre. Sì. Ho capito. Questa volta non la ho capito. Joy da Terni, vai Joy, dimmi Joy. Ciao David. Dimmi. Buonasera, caro amico. Crucio, dimmi Joy, dimmi. Fammi parlare un attimino, perché forse sarò il primo nero che non ti dà del pezzo di merda, ok? No, veramente ce ne sono tanti che non mi danno del pezzo di merda, però va bene, insomma, se vuoi essere il primo nero secondo te, va bene, dimmi. Va bene, ok. Volevo semplicemente farti fare una riflessione per quanto riguarda, che sono due giorni che state lessando il cazzo con quel gatto nero, che poi gatto è stato nero, trovato. No, gatto, punto. Non so se è nero o no. Non se il nero che ha bruciacchiato il gatto. Il nero ha mangiato il gatto, ma non sappiamo se ne ha scelto il colore. Se ha scelto il colore del gatto da uccidere, non diciamo minchiate. Era un po' carbonizzato, dunque è un po' difficile ricostruire il colore del gatto. Vabbè, allora Joy, dimmi. Okay. Naturalmente si potrebbero chiamare i ris di Parma, naturalmente. Forse il gatto era morto. Forse questo non vuol dire che questo non vuol dire che io scagiono il nero, perché è una cosa che dà più fastidio a un nero rispetto al fastidio che può dare a te o a Parenzo o a chiunque altro. Ok, perché è una cosa che mi tocca in prima persona. Vabbè, dunque, poi vengo... che vuoi dire? Ancora non ho capito che vuoi dire. Cioè... Dunque, se mi fai parlare un secondo, voglio arrivare al punto. Il punto è questo: come mai ieri ho ascoltato la trasmissione, nessuno ha parlato e ha fatto voce invece dell'italiano che ha impiccato il proprio cane, ok, e lo voleva fare a pezzi? Come mai? Poi chi tu sei detto? Uno che sta sempre su... Ma chi tu te l'ha detto? Quando succedono queste cose si scrive di queste cose tranquillamente, si condannano queste cose, che dici? Certo, quello ha fatto più scandalo perché era un immigrato, probabilmente senza permesso, davanti a una stazione, c'era tutto un elemento in più, è stato, come dire, ripostata la cosa diffusa dalla Lega, c'è stato un casino politico su quella roba là, ma è normale che sia così, se vuoi è normale che sia così. Quando ti ci metti ragioni anche te? Vai, bravo. Ciao. Vaffanculo. Allora abbiamo con noi, caro David, la protagonista di quel video con il signor Conte, la famosa studentessa che avrebbe fatto, perché non so se è vero, un esame con il premier Conte. Si è avvicinata lì senza mascherina al signor Conte, devo dire, in maniera incredibile, anche facile, perché in un altro paese non è facile avvicinare il presidente del Consiglio. Invece l'hanno lasciata passare, anche questo è vero. Eccola qui, è Alessandra Cantini, è lei. Ciao Alessandra. È la mezza matta. Certo, buonasera signora. La svalvolata di Livorno, esatto. Che non si è fumata, non si è drogata e aveva il ventenne con cui fare sesso lavorando in quarantena, la scema. Sì, la scema che si è messa, diciamolo subito. La svalvolata il premier rispose, Conte la non lo sa. Rispose. Il premier Conte non lo sa, ma la signorina Cantini è quella che ha tirato fuori il culo da Chiambretti, si è smutandata qui in diretta qui e soprattutto ha iniziato a fare i filmati porno. Un grande curriculum ragazzino con un pisello di 24 centimetri, almeno così risulta dalle cronache, giusto signora Cantini? Se non sbaglio. Basterebbe andare su OnlyFans a verificare. Comunque andiamo sulle fasi a verificare. Il momento storico particolare, il momento, cioè noi eravamo arrabbiati, stavano finendo tutto, mi stavano tributando. No, ma questo l'abbiamo questo lo sappiamo, e però allora, vogliamo sapere un'altra cosa, noi non vogliamo. Però ho fatto porno di base, anzi sono hai fatto però dei filmati porno che uno basta che va a guardare, si abbona a OnlyFans, paga e vede tu che prendi però un pisello in bocca, c'è così. Poco da fare e prendi anche il pisello in altre situazioni, c'è poco da fare, quello è porno, non è che è una cosa strana. Vabbè, però non è Supernova, ci farò altri video che non saranno veramente porno, lo scoprirete a settembre. Benissimo, allora voglio capire una cosa, hai veramente fatto l'esame con Conte? In realtà no, perché lui mi sembra che... Hai detto una balla? No, non ho detto una balla, io ho detto avrei l'hai fatto o non l'hai fatto? L'esame con lei. No, avrei potuto, perché era lui, era diritto privato. Ma ti piace sessualmente? Sessualmente ti piace Conte? No. No, proprio no. Zero. Oddio, c'è questa versione del nemico... perché ovviamente non concordo affatto sul suo governo. Non sei contiana, sì, non sei a favore del governo giallorosso, però no, la versione del nemico, in che senso? Cioè, qual è il punto col nemico? Cioè, ti vorresti, cioè c'è l'attrazione per il nemico? Magari, esatto. Chi lo sa. Cioè, io adesso l'ho beccato per la strada, se avessi saputo che sarebbe diventato presidente del Consiglio in sede quando era professore, se lo beccassi in Camera dei Deputati. Non avresti... Palazzo Chigi, insomma, non lo so. Cioè non, fare di peggio, non è, però non c'è, non è fisicamente non è il tuo tipo, diciamo. No, perché no. Anche perché tra il ragazzino poi pare anche che abbia anche cosa? Pare che ci siano anche altre tendenze, quindi no, veramente no, cioè non risulta. Dico. Sta con una fidanzata apparentemente, sta con una fidanzata molto bella, eccetera, va sulle copertine. Adesso gli stai attribuendo al presidente del Consiglio dei gusti sessuali. Dei gusti sessuali che non risulta. Apparentemente ci sono tante cose, ci sono sempre le cover delle storie. Ci sono sempre le? Lo so. A volte le storie vengono coperte, ci sono delle coperture apposta. Ah, no, adesso possiamo smentire, caro Parenzo, tu che ti intendi di queste cose, che il signor Presidente del Consiglio... Mi ha silenziata. Ma non ti ha silenziata? Allora, il presidente, io posso darti anche... No, lo scoop non te lo do perché lo voglio pubblicare domani sul mio Instagram di una persona con cui oggi mi sono allenato in palestra. Ma quindi diciamo, conosco bene questa situazione perché l'ho proprio commentata oggi con questa persona. Che è il portavoce del Premier, dai, sostanzialmente. È stata una scena vergognosa. Questa è una poveretta, una mezza matta. Il caldo. Hai fatto ginnastica con Casalino, mi stai dicendo? Sì. Hai fatto ginnastica con Casalino? No, ero nella palestra, frequentavamo la stessa palestra e quindi ci siamo incontrati e ci siamo allenati insieme. Parenzo ha fatto ginnastica col signor Casalino, col portavoce. Oh, benissimo, perché è legittimo. Lui è molto fisicato e si allena. No, ma davvero, giuro, lui è molto fisicato. Lui si allena per i fatti suoi. Io avevo il mio personal e mi stavo allenando. Lui non aveva il personal perché lui da solo. Pazzesca. E io mi stavo allenando questa cosa perché devo mantenermi. Ecco, ma ti voglio dire di più. La scena di questa mezza matta l'ho proprio commentata perché gli ho detto sai chi è quella lì. Cioè, lui non sapeva chi era questa signora vestita di giallo, questa ragazza un po' esuberante vestita di giallo. Gli ho detto amico, lui mi dice ma chi è? E io ho detto semplicemente una mezza matta, tre parole. Io ho usato solo tre parole. E lui che ha detto? Ma niente, si è messo a ridere, ha detto sì, è una scena grottesca. Fermi, torniamo, fermi tutti, che qui c'è Ciccia, qui che novità, è grossa novità. Qui è grossa novità, grossa. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading. Vi presento La Zanzara. Colleghi, concludiamo il giro sull'ordine dei lavori. Deputato De Luca, sempre sull'ordine dei lavori, prego. La ringrazio, Presidente. Ma semplicemente perché non è possibile tollerare ancora un simile numero e cumulo di bugie che vengono raccontate in quest'Aula. E ricordiamo semplicemente alcuni dati che poi possono essere interpretati da ogni cittadino italiano in piena coscienza e conoscenza. Il trattato è stato negoziato per mesi dal governo giallo-verde di cui era vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Per mesi interi! Dal dicembre dello scorso anno! Per mesi interi! È stato negoziato da voi! Dal ministro Tria! È stato negoziato! Per mesi interi! Dal dicembre dello scorso anno è stato negoziato da voi, dal ministro Tria, è stato negoziato per mesi interi. Minchia come picchia De Luca. Direi, Giuseppe, che dopo il pissing dovremmo in futuro affrontare un tema del quale non hai ancora parlato. Ass to mouth, dal culo alla bocca. Ecco, questa è un'altra cosa che pratico, che mi piace tantissimo e che ti assicuro potrei veramente scriverci un libro. Credo che in futuro, non subito, quando vuoi tu, comunque ass to mouth, è un argomento veramente importante. Giuse, una delle cose che mi sono dimenticato, cazzo, di dire a Maddalena alla fine è che se vuoi raggiungere la sublimazione nel rapporto sessuale, devi perdere il controllo. È questo che serve il pissing, l'ass to mouth, il fisting, perdere il controllo e lasciarsi totalmente andare per essere posseduti, e alla fine si raggiungono dei vertici, delle vette inarrivabili. Non ha tutti i torti l'amico Maurizio che l'altro giorno duettava con Maddalena. Ma abbiamo qui, Parenzo, due notizie clamorose. Una è che tu vai nella stessa palestra del signor Casalino. L'ho scoperto per caso. Comunque, sicuro, sì, vai nella stessa palestra, ti alleni insieme al signor Casalino. L'altra notizia, oggi è successo, in genere non ci incrociamo mai con... mettiamo le notizie. Vabbè, intanto l'abbiamo detto lì, buttiamo, diamo delle cose vere. Ci siamo incrociati perché io vado in un orario diverso dal suo. Questa volta sono andato a ora lui, chi era la signora che ha avvicinato quando ero lì ho chiacchierato, dico, ho visto quella scena lì della cosa dice sì, incredibile, dico, sai chi è quella? Ho detto no, quella è una matta che ogni tanto chiamiamo alla zanzara. Non avevo dubbi. E quindi, perché scusami, ho detto che era una matta, ho detto, sì, ma perché devi classificare la signora zanzara Cantini qui presente come matta? No, posso chiederti, ma perché la una svalvolata? Ma perché? Ma che adesso? Ma una svalvolata? Ma no, ma ho capito. Una svalvolata? Ma perché? Ma lui sembra che da TSO. Sembra che da TSO. Cioè, adesso magari no, perché non è pericolosa. Però, scusate, una signora che si toglie le mutande in pubblico, mostra il culo e disturba il presidente. Dice che va in giro, senza mutande reggiseno. Voglio dire, io. Sulle mutande sto facendo la mia fortuna, ma anche un po' la vostra, perché alla fine ieri se avessi preparato questo gesto, se l'avessi immaginato, io volevo portarle in Vaticano. Come vuoi dire? In che senso? Non ho capito. Non ho capito che volevi fare in Vaticano. Vabbè, i piani con le mutande erano altri, che poi sono stati cambiati perché... Ma in Vaticano? Che vuol dire volevi portare le mutande in Vaticano? Non ho capito. Ma non lo so, volevo fare una preghierina con le mie mutande in mano. Una preghiera con le mutande in mano. Ti avrebbero arrestato. Per cui stiamo parlando. Le guardie svizzere ti avrebbero arrestato, cara. Le guardie comunque svizzere. Posso dirti una cosa? Su una cosa ha ragione la signora Cantini. Quando dice, l'ho letto da qualche parte, dice: è stato molto facile avvicinare il presidente del consiglio. Perché effettivamente. Vabbè, in ma un lui altro... non ha grande scorte. Era quindi, se uno chiede. Se avesse voluto dare un pugno in faccia a Conte, l'avrebbe potuto fare. È una persona che sta tra la gente, non ha paura di uscire dal palazzo. Non ha paura di uscire dal palazzo. Con la sua museruola scatenando terrore pandemico. Ma che terrore, esce con la mascherina. Terrore pandemico. E ha detto una cosa giustissima: manteniamo le distanze. E ha detto una cosa molto semplice: di fronte alla furia di questa matta, ha detto semplicemente, con grande spirito british, manteniamo le distanze. È cosa che quindi non ha fatto, sembra, però insomma... è rimasta a 20 centimetri, è rimasto l'altra a 30 centimetri. Era anche imbarazzato, forse, da questo. Scusa, ma il prossimo passo, oltre al porno, il prossimo passo della Cantini potrebbe essere quello di fare la escort. Cioè, non hai mai pensato di fare la. Ma io te lo consiglio. Però guarda che c'hai un culo pazzesco, per cui c'hai un culo pazzesco non nel senso di fortuna, hai un culo mondiale, si vede, hai un culo incredibile. Secondo me puoi andare a livello, cioè puoi arrivare anche a 1000-2000 botta. Quello è un'altra cosa, non c'entra niente. Il mio lavoro è un altro, sono un artista. Ho capito, sei un artista adesso. Una donna deve esigere, deve essere l'uomo, l'artista come una dea. Artista. Se si vuole definire artista, ma ognuno si definisce come vuole. Se si definisce artista, la Marina Abramovic è un artista. Io ho fatto una grandissima allegoria. Veramente, se poi stare a pensare alla parte superficiale della smutandata che passa le mutande di qua, svalvolata, di là. Se lo sapevo, se l'avevo in mano, le davo, perché ha detto: questo è l'ultimo indumento che avete lasciato agli italiani. L'Italia è rimasta in mutande. Ah, volevi dare le mutande? Se avessi avuto le mutande, Tu eri senza mutande? Solo quello, cioè, ma eri senza mutande? Esigere le tasse. Ho capito, ma sei, no, eri senza. E perché non te le... allora perché non te le sei tolte? Perché saperlo, perché se avessi immaginato una cosa del genere mi sarei fermata e l'avrei tolte. Ma il vestito era troppo svolazzante. Allora, diciamo una cosa, sesso anale non lo vuoi fare perché dici che va bene solamente per gli omosessuali, per i gay, e lo lasci a loro. Vorrei fare un'altra puntualizzazione, perché proprio in questo momento c'è la comunità LGBT, quella degli omosessuali, sono tutti contro di me perché parlavo con Danzi Donzi. Vabbè, allora parlavi con di che cosa? Mi ha offesa. Se quando distribuivano le licenze ero in coda sulla castità, non so per cosa. Perché, e poi siamo partiti in questa grandissima lite. Perché lui dice: tu ci chiami Frosi, di qua, di là. E ho detto: allora io ti chiamo Troia. Ho detto: se te mi chiami Troia, io non mi offendo. E forse non hai capito che io non è che usando, cioè, il termine. Tu, giustamente, no, ma questo l'ho capito. Però voglio dire una cosa: se ti chiamano Troia, non ti offendi dunque. Ma direi no, valuto il mio tempo e il mio corpo molto molto preziosamente. Ciao. Quindi, ciao Ale, ciao. No, ma aspetta. Ciao, no, aspetta. Ciao, ti devo salutare. No, ciao. Ma le cose del governo bisogna ti dire. Devo salutare, ciao. Volata finale Giuseppe da Padova. Ale, dai. Oh. Pronto? Dimmi Giuseppe, dimmi. Ciao Crociani, volevo ringraziare Adinolfi perché... Addirittura ringraziare Adinolfi. Ringraziare Adinolfi, sì. Dai. Perché? Perché ha sollevato quello che è sotto gli occhi di tutti, no? Cioè? Una cosa molto... l'inflazione dei gay, l'inflazione dei gay, e poi dei gay sulle televisioni pubbliche. Ma qual è l'inflazione dei gay? Ma scusa, quando il mio amico Pierluigi Diaco, che è orgogliosamente amico mio, io sono orgoglioso di essere amico di Pierluigi Diaco, va in televisione, che cos'è, gay o un conduttore televisivo? Che cazzo ne sai tu se è gay o no? Che cazzo te ne frega? Quando un altro, ma un'altra, cioè voglio dire, non è che siamo al Gay Pride a Rai 1, cioè non è il punto questo, ragazzi, di che parliamo? Parliamo di follie. Cioè, come fai a dire che c'è l'inflazione dei gay in TV, Giuseppe? Come lo fai a dirlo? Non so, vuoi l'elenco? Ma dimmi, qual è l'elenco? Ma chi lo fa questo elenco? Ma scusa, allora, lui innanzitutto, lui non vedo perché tutti ti deve sbandierare, cioè sbandierare, o meglio, usare un servizio pubblico per sbandierare il suo amore per suo marito, suo ma moglie, chi? Non so chi lo fa? Non lo so, non so se... Diciamo, a parte che si chiama Diaco, ma qual è che ha sbandierato? Fa delle interviste, fa un programma televisivo, non sbandiera nulla. Professionalmente nulla. Ma non sbandiera niente, avrà fatto qualche affermazione, qualche intervista in cui ha detto che era fidanzato con una persona, punto e basta. Ma dov'è sto sbandierato? Ma sposato, benissimo. Adesso vuole un figlio. Ma vuole quello. Ma qual è? Ti fa schifo questo? Ma non mi fa schifo, Giuseppe. Io ti dico solo questo, non so. Cioè, sta diventando il monopolio loro. E oltretutto, sai dov'è l'assurdo? No? Che si sentono bistrattati. E questo è l'assurdo. Ma amico, io non so. Guarda, ti posso dire una cosa. Sì. Se fai un riferimento ancora a Diaco, si sente tutto tranne che bistrattato. È uno di quelli che lamentela sul gay, il vittimismo gay che spesso esiste, proprio non è roba sua. Te lo posso assicurare. Non è roba sua. Cioè, te lo posso garantire, assicurare. Allora, lo conosco bene. Per cui tu dici che in generale si sentono. Ma sì, vabbè, c'è un vittimismo ogni tanto. Esatto. Sì, ma il punto è un altro. La follia di, secondo me, di Adinolfi, che non dovrebbe essere nemmeno multato nulla, non dovrebbe avere nessuna sanzione per questo, e questo è un altro discorso, è di pensare che ci sia una regia gay che metta gay nei posti di comando alla conduzione di programmi solo in quanto gay. Però ascolta, Giuseppe, tu credi alle combinazioni? Ma ho capito, Giuseppe, però cioè, non che vuol dire credo alle combinazioni? Credo che e dunque secondo te esiste questa regia? È normale che qualunque canale giri, no? Con tutto il rispetto, ma qual è? Tutto il canale, che a parte che quello ha parlato solo di Rai 1, cioè non è alla 7 alla 7 c'è suo marito. Poi, scusa, parliamo, tornando lì, a parte che sostituisce una persona, c'è una persona che ha fatto l'assistente ai programmi, il marito o simil tale marito, sicuramente si è sposato, lo conosco anche, sì. E allora qual è il punto? Ma non ho capito, cioè, ha fatto la gavetta normale, conduce un programma, non è che lo conduce in quanto gay. Giuseppe, non sto mettendo in discussione la sua professionalità, perché so che... Beh, allora basta, punto! Non è che c'è la lobby gay che comanda. Tu, secondo te c'è la lobby gay che comanda? Questo è il punto. Sì, sì. Sì, e vabbè, questo, che te devo questo, fare, ragazzi? Il motivo della mia telefonata... Dopodiché, ma va bene, Giuseppe, il punto... Sì, sei d'accordo con Adinolfi, d'accordo. Però ti posso dire una cosa, Giuseppe. Tu sei libero... Per me sono tutte minchiate. Sei libero di pensarla come vuoi, ma sono follie. E in ogni caso, io difenderò la tua libertà di dirle, però, queste follie. Cioè, sì, difenderò la libertà... Che beh, tu dica quello, no, va bene, d'accordo, però sono follie, cioè follie. Paolo da Torino. Paolo da Torino. Pronto. Dimmi. Siamo cattolici solo quando ci conviene. Cioè, che vuol dire, Paolo? Non ho capito. La legalizzazione della marijuana, allora lì siamo cattolici, no? Non si può perché la Chiesa non è d'accordo. No, guarda, la Chiesa della legalizzazione della marijuana probabilmente non gliene frega un cazzo. Cioè, non gliene frega nulla la Chiesa della legalizzazione della marijuana, e se veramente il Parlamento volesse farlo, proprio la Chiesa non potrebbe fare niente su questo. Ma che c'entra? Ciao italiani, che c'entra? Gianluca da Ragusa, vai Gianluca, dimmi. Allora, ciao Giuseppe, senti, io volevo intervenire in base a quella persona, non so come si chiama, quel tipo che va in Austria, va a prostitute e se ne vanta. Il karma, questa allora? Persona qui. Cioè, ma io lavoro in per stato, cioè credimi, non lo so, non sono Brad Pitt per carità, sono, ti assicuro che sono focoso, e cioè, ma io sto, non lo so, come si fa ad andare a puttane nel 2020? Ma che cazzo vuol dire come si fa ad andare a puttane? Ma allora non ho capito, migliaia alle migliaia, se non centinaia di migliaia, se non milioni di persone che tutto il mondo frequentano bordelli, vanno a puttane, che sono tutti matti, tutti impazziti, tutti con gli ormoni impazziti, mostri, sfruttatori, che cazzo vuol dire? Matti no! E che cosa sono? Ma sicuramente non hanno il vero piacere del sesso. Ma che ne sai, c'è gente che scopa ugualmente, e poi magari ogni tanto si diverte una serata ad andare in qualche bordello e magari scopa fuori allo stesso modo. Io lavoro in un ipermercato. E allora? Io una donna che te la dà, io già mi accorgo dalla spesa che ti fa. Ma cosa c'entra questo? Ma sono due ambienti, ma sono due partite diverse. Scusami Gianluca, posso? Sì, d'accordo, te la costruisci la seduzione, per carità. Cioè, sono due partite diverse, due mondi diversi, due sensazioni diverse. Italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Rocco, che cazzo fai? Sempre scopando qui.